queste poi ci sono proprio al pessimo del pessimo. Questo è un signore che si chiama Biagio Antonacci, ma per me si aggiunge laccio, no? Una cosa che non va bene, tipo un giornataccio oggi. E questo è già previsto, no? Biagiaccio Antonaccio con il nuovo album che uscirà il 3 novembre. Il 3 novembre devo levare i capelli, infatti mi pare, non esco di casa quel giorno. Questo è il nostro new hit, le 14:04 minuti, le cose che ho amato di più. Io sono Fergal Kavanagh, alla regia abbiamo Tetsuya, grazie di Antonio per l'ultima ora, facciamo un viaggio nella macchina del tempo. Treno ha fatto il suo viaggetto e a proposito di essere in movimento eccetera, sulla pista del Formula 1 e sui Ferrari ci stanno grandi festeggiamenti oggi, perché il campione del mondo, come sapete tutti quanti ormai immagino, è Michael Schumacher. Allora un'altra grande vittoria per lui, la storia sarà proprio sua quando parliamo del Formula 1. Il GSM Box è attivo al 0348 24 38 888, sapete come fare il numero, contattaci e noi vi regaliamo Cleopatra, Come and Get Me, una bella canzone per voi di domenica pomeriggio on Radio Tour. With you, that's Kellis. Il suo nome è un misto tra i nomi dei suoi genitori, Ken e Alanis. Ecco, allora questa volta siamo 14:21, l'ora di cenare un po' di carne magari. Chissà, siamo in macelleria, va? Sono sempre aperto, gioco e mi diverto. Tutte le clienti sono impazienti. Della meglio carne, non so cosa farne, ma voi sì. Hey. Gina, sì. Francesca, hey. Ci siete proprio tutte. Rospi, maiale, arrosto le bracciole. Ti vuole il mio animale. Sono grosso e peloso, sono un grande focoso nel giocare con te. Nel quartiere mi sanno e perciò me la danno. Voglio tutta amiche. Voglio molto un bacio, prince. Ecco la macelleria, crudo lì, spero che la vostra è un po' più cotta e quindi buon appetito. 14:22 è l'ora di cenare, domenica pomeriggio sempre una bella cosa. Lasciamo un attimo la macelleria, va, andiamo in classifica internazionale dove troviamo il più grande artista del momento, Robbie Williams. Ando proprio al suo amore, vorrei essere tua chitarra così, chitarra spagnola così, e tu mi potresti suonare un po', no? Vabbè, l'immaginazione ci sta. Allora, se voi volete dedicare una canzone a vostro persone preferito, basta chiamarci al 081 790 1411, perché tra poco il Just For You. Ieri dovevo uscire per andare a ballare, per vedere una persona speciale, ma ho preferito uscire con mia best friend che non potevo venire. Non fermato grazie di questo messaggio, perciò però non hai avuto la possibilità di ballare quella bella musica che mettono in discoteca. Un grande hit che stanno mettendo in questo momento sono i Mojo con Lady on Radio Tour The Moving Station. In Ibiza quest'estate, wow, ricordo l'estate, però può durare quanto vogliamo, basta che abbiamo il bel sorriso, anche se è iniziato a piovere qua in centro di Napoli. Oh no! E grazie a Federica che ci ha telefonato, volevo dedicare un bel brano a Marco. Per te Marco, 7 Days o Craig David. With Groove Jets, proprio la musica di domenica pomeriggio per farci sorridere quando abbiamo la pioggia che c'è fuori. E non è solo a Napoli che piove, pure a Padova piove. Stefano ci ha scritto e ha pure detto a me che sono stato lasciato. Paola e Chiara prima con Vamos a Ballar mi hanno fatto anche, no, arrabbiare. Adesso mi deprimono con questo nuovo singolo. Allora Stefano, forse verso le 15:10 è meglio allontanarti un attimino dalla radio, o anzi se stai ascoltando da Padova, allontanarti un po' del satellite, del parabola della tua televisione. E poi Dome e Pino ci hanno scritto, stanno ascoltando, aspettando che mettiamo la nostra versione di Robbie Williams, cioè quello di Michael Track DJ, il nostro macellaio di Napoli. Comunque state ascoltando, sì, però mezz'oretta fa non stavate ascoltando, non capisco ragazzi, avete perso per questa volta, ormai dovete aspettare fino a domani. Il GSM Box è 0348 24 38 888 e adesso vi facciamo sentire Savage Garden, To the Moon and Back. Hanno fatto un po' di rock questa volta, bello, a me piace. Passione, un attimo. Abbiamo un bellissimo canzone eseguito da Phil Collins, che proprio è un classico, no? Allora, arriva Mariah Carey, dice: ma faccio due spiccioli e faccio un bel versione di questo. E l'abbiamo sopportato, l'abbiamo pure ascoltato. Questo è andato, vabbè. Poi, che ha fatto? È andato a Capri, ha portato quei irlandesi Westlife, cioè proprio l'irlandese che fanno vergognare di essere irlandese, e ha detto: rifacciamolo, riproponiamolo, e noi soffriamo. Un bel canzone Against All Odds, però, oh, basta, rimaniamo in Napoli. Questa volta ascoltiamo Miele, un gruppo napoletano, e questo è Pensieri per voi adesso. Oh, Napoli, città di musica, no? There you go. Marco di Castellammare ci ha scritto sul GSM Box, vuole proporre di fare il grande fratello con tutti gli speaker della radio. Non lo so se è una buona idea, perché la cosa più bella della radio è che non si vedono le persone, così noi possiamo venire a lavorare anche di domenica pomeriggio dopo una sabato notte tardi, vestito e come vogliamo, no? Non è una cosa da vedere, vi garantisco. Ladies and gentlemen, the clock. Le 15 e un minuto. Radio Tour, the moving station. Phoenix, alle 15 e 5 minuti. You're listening to Radio Tour. Io sono Fergal Kavner, con me c'è Tetsuya. E adesso Tetsuya mi ha suggerito: ma questo non sembra un po' come Al Stewart, cioè quello The Year of the Cat? Infatti, questo bel retro a me piace molto. Prima del punto ora ho detto qualcosa a proposito del Grande Fratello. È arrivato subito una risposta qua: tu saresti da vedere sempre e comunque, perché io avevo detto che non siamo sempre da vedere noi speaker, soprattutto di domenica pomeriggio dopo sabato notte. Comunque, grazie di questo messaggio, mi ha fatto ridere. Saremo insieme fino alle 18, tante altre opportunità di ridere pure. Adesso però la musica. Connessione in corso. Attento, non regni anche se mi accoppate. Siamo il sole Radio Tour. Irlanda poi dice: gli ho fatto il viaggio di nozze, è stupendo. Grazie, thank you very much Stefano. Poi ci chiedere la partita. Yes, very importante, molto importante questo fatto. L'Irlanda ieri ha pareggiato 1-1 col Portogallo. Allora siamo penultimo nella classifica, il quale sembra male, però infatti è ottimo, perché le due squadre che ci facevano più paura, l'Olanda e il Portogallo, abbiamo pareggiato fuori casa con tutti e due. Ottimo, le cose possono soltanto andare bene. Ora che arriva sabato, vabbè, dovete aspettare solo un altro 6 giorni, perché abbiamo già vissuto un bellissimo sabato ieri, no? Oggi siamo a domenica. Mare e Fede ci hanno scritto, vogliono mandare tanti saluti da Alessandro e Gildo. Wow, un'amica mia aveva un cane di nome Gilda, mica Gildo è un cane. No, scusa, sto scherzando. Allora, adesso ascoltiamo il Posh Spice, che ha fatto questo disco solista, diciamo, insieme a Two Steppers and Dane B. This is Victoria Beckham and Out of Your Mind. Fuori dalla testa proprio. Amici di Radio Tour, siamo Ila e Larry. Volevamo dirvi che siete super. Oh, thank you very much. E che non sarebbe lo stesso senza voi. Ah, è vero, ma thank you very much, Ila e Laura. Salutami il cugino Silvio V, che voi conoscete. Yes, ciao Silvio. E poi qualcuno ha scritto e ha detto: oh, perché non mi... No, anzi, non hanno detto perché. Hanno detto: dovete far sentire questo pezzo, non potete dirmi di no. No, scusa, non possiamo accontentarvi attraverso il GSM Box. Dovete comporre il numero 081 790 1411 per il Just For You. Infatti lo potete fare subito adesso, mentre noi vi facciamo sentire gli All Saints. Ho introdotto questa canzone di Gianluca Grignani come speciale, però invece è le mie parole. Però ragazzi, per difendermi, Gianluca Grignani è sempre qualcosa di speciale, no? Cioè, almeno voi ragazze magari pensate così. E adesso accontentiamo Francesca con Torre Loco da Pier Pelù, remixato da Apple 65. The Moving Station, just With Timba, Timba, Timba, Timba, Timbuktu, ma che cos'è? Non lo so. Allora, qualcuno ci ha scritto: ciao, stupendo. Oh, thank you very much. Potresti ripetere il titolo della canzone di Savage Garden che avete messo nell'ora precedente? Yes, the name was To the Moon and Back, il che vuol dire alla luna e torniamo. Questo è arrivato sul GSM Box 0348 24 38 888. E a proposito di SMS, sicuramente questo non capiterà a voi ascoltatori, però ci sono persone nel mondo che sono proprio dipendente, tipo tossico dipendente dell'SMS, e addirittura in Danimarca leggo che hanno aperto il primo centro per disintossicarsi della nuova mania qua, che se uno sta lì a aspettare che fa il beep beep beep beep del cellulare sta proprio male, no? Ok, vabbè, saluto un altro paio di persone. Viviana di Aversa, ciao a te, pure a Mary, complimenti ancora per il tuo inglese, e poi salve a tutti, diresti a Sassi che è sempre nei miei pensieri. Sassi, sei sempre nel pensiero di questa ragazza che si chiama Anonima, Anonima Ricciolina. George Michael, Martin with She Bangs, è molto polemico per questa canzone, praticamente She Bangs, allora sarebbe un termine slang tipo per dire lei, vabbè, no, capisci, lei si può dire, no, domenica pomeriggio meglio di no, comunque ufficialmente magari non è quello, però il BBC in Inghilterra hanno insistito che lui cambia i testi prima di farlo sul radio britannico, perché c'è una frase che dice She blew me off, che in America in lingua americana vuol dire che lei l'ha mollato praticamente, l'ha lasciato stare, le ha detto no, non mi interessa, mentre in inglese britannico vuol dire qualcosa veramente molto più pornografico, diciamo che si usa pure le bocche, non sto parlando di baciare sul labbro, ragazzi, basta, non parliamo di queste cose, ascoltiamo la musica, è meglio, no? Bryson, messaggio su GSM Box, SOS, stasera non deve piovere, sono proprio d'accordo, siete d'accordo? Non piovere stasera, vediamo se funziona. Ladies and gentlemen, the clock. Le 16 e un minuto. Radio Tour. Ray, inaspettatamente, riesco a dire la parola adesso, se come fosse un madrelingua dell'italiano, inaspettatamente il nostro new hit per questo, poco dopo le 16 saremo insieme fino alle 18, io sono Fergal Kavanagh, con me c'è Tetsuya e stiamo facendo i bel discorsi qua con un caffè lungo nero, Nescafè, si può dire il nome, vabbè, Nestle è pure il sponsor del Topolino Club, quindi stiamo pure nominando un sponsor, quindi è buono questo caffè, bravi, e la musica è pure è buono, però proviamo a levare tutti gli strumenti nel macchina del tempo e facciamo tutto a cappella, vai? Connessione in corso. Mi fa ridere Tetsuya, non è che lavora molto, molto spesso con Tetsuya, però mo sto scoprendo che quello veramente sa l'origine di ogni canzone praticamente. Questi sono gli U2 con Beautiful Day e Tetsuya mi ha fatto presente che lì hanno fatto questa canzone The Sun Always Shines on TV un paio di tipo 20 anni fa che faceva Touch Me ed eccolo l'altra volta. Poi mi ha detto allora poi arriva la versione italiana di Karma Police dai Radio Head. Non lo so se vi ricordo. Karma Police, arrest this man. No, non lo è veramente. È Nicola Fabi with qualcosa di meglio. Però lo assomiglia. Ammetto, lo assomiglia. Che rubatore questo Nicola. Radio Terminal Station, Sunday afternoon. Qualcosa di meglio per voi adesso. Vito ha detto che sta annoiando qui a casa. Oh, meno male che ci siete voi a tenermi compagnia. Yes, here we are, Pia, with you, Radio Tour, the moving station. E dice PS, non deve assolutamente piovere. Sono d'accordo con te, però mi pare che ci sono poteri più forti che di noi che pensano queste cose. Poi, ciao a Mirko, Marco, anzi, grazie di averci iscritto. Volevi dire a Yaya che è la ragazza più bella del mondo. Ecco, Yaya, ci sei. Mandaci un foto così saremo tutti quanti sorridente e solare in questa giornata, questa domenica pomeriggio di pioggia. You're listening to Radio Tour and now it still reminds me, chi still reminds me? Angun Sinclair, I feel for you. C'è un voce un po' strano per un po' l'avrei immaginato un po' più profondo. I feel for you on Radio Tour. Sentiamo tutti noi per voi perché voi siete i nostri migliori amici, ascoltatori di Radio Tour. Allora Lenny Kravitz è uscito con un nuovo single singolo, come magari lo sapete già, si chiama Again, e il video prevede un tipo di riporto, un triangolo che è girato con Gina Gershon, una bella attrice. Però Lenny ha spiegato che questo non è una scena di un rapporto sessuale con questo Gershon. Praticamente questo video parla del fatto che si può incontrare o vedere qualcuno che, anche se incrocia per un attimo, però è un attimo che dura un secondo o due, poi finisce, passa, scorre via. E se ci rifletti, quella persona avrebbe potuto dovere essere importante per te, magari avrebbe potuto essere la tua anima gemella, la parte che ti mancava, e potresti non incontrarla mai più. Wow, dal suo Greatest Hits che esce il 24 ottobre, questo è Lenny Kravitz with Again. Never See You Again, speriamo che riesci a vederla un'altra volta, se veramente è una persona che le potrebbe cambiare la vita. Questa è la bella voce di Lenny Kravitz. Allora, noi siamo la radio in movimento e adesso facciamo un piccolo salto a via Caracciola. Infatti andiamo al Topolino Sport Fund by Nestle, dove troviamo già lì Antonio Ciotola. Just for you, in tour. Connessione telefonica. Infatti, diretto alla nostra movie station. Goes on, la vita continua. Voglio prendere questa opportunità a fare gli auguri ad una dei miei eroe. Allora, praticamente il compleanno sarebbe domani. Dico sarebbe perché purtroppo non è con noi, non è ancora con noi, cioè non è sempre con noi, come si dice. È morto 20 anni fa, sto parlando di John Lennon, e domani compierebbe 60 anni se fosse vivo. Allora, a proposito di John Lennon e i Beatles, è uscito il loro nuovo libro che hanno scritto i tre Beatles insieme, i tre che hanno sopravvissuto, e è andato in vendita, però purtroppo sembra che non c'è stato questo grande richiesto per questo libro, che è il primo giorno a Liverpool, la città natale, come si dice, di nascita dai Beatles, hanno venduto soltanto 5 copie a mezzanotte, un negozio che ha scelto di rimanere aperto, e il giorno successivo una sola copia dentro un negozio di libri. Questo mi dispiace, però yes, the Beatles ormai sono la storia e life goes on. Radio Tour, the moving station. Radio Tour, la radio dei grandi eventi, vi segnala nuove etnee partenopee, mostre, musica, danze e spettacoli di artisti di strada con Tony Esposito, Isezzi e del Cabaret dei Tiandria. Nuova etnea partenopea stasera 8 ottobre in via Rotondelle a Camaldoli, Napoli. Ingresso gratuito per tutti. Radio Tour c'è. With Say It Isn't So, dal loro ultimo album Crush, e loro erano i protagonisti dell'ultimo concerto mai fatto a Wembley Stadium a Londra. Ieri sera infatti c'era l'ultima partita di calcio mai fatto a questo, perché si era battuto e ricostruito per il 2004, e ieri ha visto l'Inghilterra Germania, e l'Inghilterra hanno perso 1-0 contro la Germania, e il CT si è dimesso, Kevin Keegan adesso se n'è andato. Un altro po' di storia. Tiramancino per voi on Radio Tour, the Moving Station, radio ufficiale del calcio Napoli. Ricordiamo, a proposito del calcio, no? Buono questo. La descrizione. Ottimo, come sempre sei bellissimo. Stiamo parlando chiaramente dell'ascoltatore e ascoltatrice di Radio Tour, the Moving Station. Mary, grazie del tuo messaggio. Sì, sabato prossimo di notte sarò in onda, però abbiamo un'altra ora intera insieme dopo il controllo dell'orologio. Ladies and gentlemen, the clock. Le 17. Radio Tour. Evo mano sorda che sto uomo mio. Questo è Lucy Pearl. Sta dicendo praticamente che le cose, l'uomo mio è l'uomo mio. Io personalmente non ho proprio questo problema, perché io sono un proprio uomo. Ma che sto dicendo? Vabbè, il GSM Box 0348 24 38 888. Saremo insieme fino alle 18. Io sono Fergo Kavana, al controllo c'è Tetsuya. E il nostro missione che vogliamo compiere è di farvi sorridere, essere un po' più solare adesso che c'è la pioggia su Napoli. Vabbè, pazienza, domenica si riposa e si gode la bella musica. Connessione Music, preso dall'album dal stesso titolo, Music, che è numero uno in tutto il mondo, praticamente in America è il quarto album per lei che va al numero uno, quindi grande successo per lei. Però lei in America non è che le importa più di tanto più. Adesso si trova a Londra, abita lì, e il 28 novembre farà un bel concerto lì al Brixton Academy, che può ospitare solo 4.000 persone, quindi ci sarà proprio un casino a prendere questi biglietti. Allora Moby voleva collaborare andare con Madonna, però troppo impegnato. Questo è lui con Porcelain on Radio 2 The Moving Station. The best music for you on Sunday afternoon. Taken from the beach, lo sapete, no? Seeker, that's my loco on Radio 2 The Moving Station. Allora GSM Box 0348 24 38 888. Flavio ci ha scritto e praticamente volevo dire a Rossana, Rossana stai ascoltando? Perché Flavio ti dice anche se non ci sentiamo spesso io ti penso sempre. Ok, questo lo devi sapere, sei una ragazza fortunata immagino, come dice praticamente la nostra cara Britney Spears, lucky. Quindi questo è per te Rossana do Flavio. Parole di burro, la parola è fatta di quella sostanza che si mette sulla panna, è buona questa fatta addirittura. Voglio parlarvi un attimo di Melanie B, che Melanie B avrà un nuovo album tra pochissimo, ottobre 9, infatti domani, che dicono che è stato posticipato un po' per il fatto che Radiohead avevano un nuovo album la settimana scorsa. Allora io mi meraviglio, perché se lei sta facendo nuovo materiale adesso, a proposito dei Spice Girls che hanno pure il nuovo singolo, come fa a promuovere sia la roba da solista che quella del gruppo? Comunque quello di Spice Girls, Holler, è stato prodotto di Richard Jenkins, che è un grande del R&B. Questo è Holler on Radio 2. E questo è stato il new hit parecchio tempo fa, infatti è stato il new hit sul primo programma che ho fatto qua in Radio 2 all'inizio dell'estate. Ecco, e ha durato così tanto, sempre un piacere sentirlo su Radio 2 The Moving Station. E adesso facciamo un piccolo salto, eh? Andiamo, dove andiamo? Andiamo al Topolino Sport Fun by Nestle, dove troviamo il nostro carissimo amico Antonio Ciotola. Lady, è proprio una bella signora questa, Lady Easy Love. L'amore è facile, lo vogliamo tutti quanti, no? L'amore è semplice. Sono stato a Salerno in questi giorni, ho parlato con qualcuno che aveva sentito un programma e ha detto: ma oh, tu dici sempre Forza Napoli, devi dire pure Forza Salernitana. Vabbè, chiedo scusa Antonella, però la cosa è che noi siamo la radio ufficiale del Calcio Napoli, però sono d'accordo con te. Facciamo, cioè, il tifo, pure il tifo per tutte le squadre campagne della campagna. Eppure per questo ci ha fatto molto piacere vedere che in Napoli, scusa, la Salernitana hanno vinto 3-0 contro Siena oggi. Radio Tour, Radio Tour, la radio dei grandi eventi, vi segnala nuove etnee partenopee, mostre, musica, danze e spettacoli di artisti di strada con Tony Esposito, Isezzi e il cabaret di Teandria. Nuove etnee partenopee stasera 8 ottobre in via Rotondelle a Camaldoli, Napoli. Ingresso gratuito per tutti, Radio Tour c'è. Radio Tour, Radio Tour, la radio dei grandi eventi. MC Neat, Master Blaster 2000, la canzone che praticamente è un tipo di cover remixato eccetera di un canzone di Stevie Wonder, che Stevie Wonder poi ha scritto come un tributo a Bob Marley, quindi un bel mix lì dentro che praticamente chiude la nostra trasmissione questa domenica pomeriggio. Però prima di andare voglio leggere questo messaggio da Andrea, Fabio, Ernesto e Antonio, che hanno detto: dove volete arrivare? Avete superato il limite del Super Saiyan, siete unici, grazie tantissimo. Purtroppo non vi posso far sentire il disco adesso perché il tempo di andare è arrivato. Ragazzi, mi rendo conto che avevo detto sabato prossimo ci sentivamo un'altra volta, però c'è Inter Napoli la settimana prossima, quindi io vi do appuntamento da me il giorno 21 ottobre per il Live on Mix di sabato sera. Ringrazio a Tetsuya, ringrazio a tutti voi, io sono Fergal Kavanagh, vi saluto, alla prossima. Le 18.